Il lavoro rende schiavi. Quando vorrai libertà, la catena di montaggio i tuoi piedi bloccherà. Il tuo misero salario, vedi, t'ha illuso già, che ogni tuo desiderio possa diventare realtà. Sciopero totale, guerriglia esistenziale. Lasci le penne, il segreto lo si sa, è farti vivere in perenne stato di necessità. Chi ha bisogno non domanda, china il capo e tira via, serve bene chi comanda. Sogno fa da spia. Sciopero totale, guerriglia esistenziale, come un fantozzi criminale. Sequestra il principale. Il lavoro rende bene a chi vive da pascià, alle tasche del padrone, agli azionisti, ai CDA. E l'aumento se n'è andato.